Il punto di Stefano Folli. Siamo talmente intossicati da una pessima politica che non riusciamo più a vedere le cose per quello che sono. Per cui se il capo dello Stato richiama il Parlamento all'esigenza di affrontare il problema delle carceri che scoppiano e sono la vergogna d'Europa, ecco che subito gli si attribuisce la volontà di salvare Berlusconi, senza che nessuno degli accusatori si prenda almeno la briga di spiegare come e perché si arriverebbe a un tale esito, considerando che quello di Napolitano è solo un messaggio, mentre è il Parlamento a dover decidere, se mai avrà voglia di farlo, tempi e modi di un intervento legislativo sul dramma carcerario. Colpisce che siano i 5 Stelle, alfieri a parole di una politica rinnovata, a diffondere le interpretazioni più maliziose e soprattutto più indifferenti alla sostanza dei problemi. Ma c'è una ragione, Grillo ha bisogno di tensioni continue e se possibile di una crisi istituzionale per sostenere il suo teorema, secondo cui l'intero sistema politico è un'associazione a delinquere, altrimenti se appena le cose vanno un po' meglio il suo spazio elettorale si riduce.